Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Protesta dei tassisti contro la proroga in arrivo per Uber. Macchine ferme a Roma, Torino, Milano. Il garante degli scioperi valuta la legittimità delle proteste. Spunta una nuova polizza intestata da Romeo alla Raggi. La sindaca contrattacca e presenta un esposto contro il suo ex capo della segreteria. Nel Partito Democratico scissione sempre più vicina. O Renzi cambia linea o siamo fuori, dice il presidente pugliese Emiliano. Sabato riunione delle minoranze. Il caso del quindicenne suicida dopo essere stato scoperto con dell'hashish, parlano i finanzieri. Abbiamo agito con giudizio, dicono a Radio 24, ma se ricapitasse ci vorrebbe un esperto. Polemica sul carnevale di Putignano. Sul palco si esibirà Tommy Parisi, è il figlio del boss del quartiere Iapigia e a sua volta è indagato per estorsione. Napoli sconfitto dal Reale, questa sera tocca l'Europa League, in campo Roma e Fiorentina. Per il Pescara c'è l'accordo, Zeman torna ad allenare la squadra. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura, dunque, la giornata pesante nelle città italiane coinvolte dalla protesta dei tassisti. Abbiamo in diretta Teresa Trillò. Teresa, buongiorno. Ciao. Con gli aggiornamenti, vai. Ciao, buongiorno. Sì, ci sono sit-in di proteste da ieri a Roma, Torino e Milano. I tassisti contestano una norma inserita nel decreto mille proroghe che è in votazione al Senato ed è definita una sanatoria pro Uber. Uber è un servizio autogestito da un'app che i conducenti dei taxi considerano dannosa per il loro lavoro. A Roma il servizio taxi è bloccato e gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono senza auto bianche da questa mattina un migliaio di tassisti si è raccolto spontaneamente anche per un sit-in vicino al Senato in attesa delle votazioni. A scatenare le proteste appunto è questo emendamento che è stato inserito nel decreto che fa slittare di un anno l'entrata in vigore delle misure che limitano i servizi di noleggio con conducente. L'autorità di garanzia per gli scioperi ha chiesto informazioni urgenti ai prefetti delle città dove ci sono le proteste e ha aperto anche un fascicolo sull'improvviso stop del servizio ai cittadini. I tassisti milanesi hanno chiesto un incontro urgente al prefetto e inoltre Federtaxi spiega che i tassisti aspettano da settembre 2015 il promesso tavolo sulla legge delega concordato con il governo e annuncia anche che possibili nuove forme di lotta verranno decise durante l'assemblea di categoria prevista a Roma il 22 febbraio. Per ora è tutto e ti restituisco la linea. E grazie dunque a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Più avanti ci collegheremo con un rappresentante dei tassisti romani per farci raccontare qualcosa di più. Intanto andiamo alla politica e alle vicende del Partito Democratico. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Un lungo weekend per evitare il rischio scissione nel PD. Emiliano Rossi e Speranza della minoranza si incontrano sabato a Roma in attesa dell'assemblea del partito, ma ormai sembra diventato un tutti contro il segretario Matteo Renzi. Il governatore della Puglia, Emiliano, infatti si paragona ad una sceriffo che spara al bandito. Insomma, se domenica in assemblea Renzi non dovesse cambiare marcia, allora andremo via, dice. Del Rio, Orlando e Franceschini mediano, anche se il ministro della giustizia di fatto schiaccia i filo renziani di Orfini nei giovani turchi. C'è poi l'appello dell'ex sindaco di Torino Piero Fassino: scissione nel PD, ragioniamo, altrimenti rischiamo di consegnare il paese alle destre. A disinnescare la mina della scissione potrebbe essere l'allontanamento del congresso, che Renzi invece vuole subito, anche perché il voto sembra allontanarsi sempre di più, non solo da giugno ma anche da settembre. Massimo D'Alema invece già guarda oltre il PD ad una costituente di centro sinistra. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Veniamo alle vicende invece del Movimento 5 Stelle e in particolare di quello che sta succedendo in Campidoglio. Sentiamo. Dall'inchiesta sulle nomine in Campidoglio spunta una terza polizza sulla vita da 8.000 euro accesa da Salvatore Romeo a beneficio di Virginia Raggi. La particolarità è che il nuovo contratto stipulato dall'ex braccio destro della sindaca porta la data del 26 gennaio, cioè due giorni dopo l'avviso a comparire inviato dalla procura alla prima cittadina. Una strana operazione sulla quale gli inquirenti stanno cercando di fare luce, ma a chiedere chiarezza sulla vicenda stamattina è la stessa Raggi. È inaccettabile che Romeo abbia fatto una cosa del genere. Ne prendo totalmente le distanze, dice la sindaca, che annuncia un esposto a tutela della sua persona. Ho letto anche questa mattina di questa polizza. Chiaramente a questo punto sono io la prima a voler capire cosa sta succedendo per una vicenda che mi vede del tutto estranea. La procura ha scoperto anche che Romeo era titolare di una cassetta di sicurezza che fu svuotata lo scorso 19 dicembre, il primo giorno utile dopo l'arresto di Raffaele Marra, l'ex capo del personale del Campidoglio. Nel suo interrogatorio, Romeo ha detto agli inquirenti che quella cassetta era utilizzata da una sua amica, che interrogata dagli inquirenti avrebbe confermato la sua versione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Via libera questa mattina la fiducia sul decreto salva banche. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Ultimo passaggio parlamentare, Simone, questa mattina qui a Montecitorio, con il decreto salva risparmio convertito definitivamente in legge. 246 voti favorevoli, 147 i no e 22 gli astenuti. Il provvedimento stanzia, lo ricordiamo, fino a 20 miliardi di debito aggiuntivo per le ricapitalizzazioni precauzionali e le garanzie sulle operazioni di liquidità. Vengono poi fissate le regole sulla condivisione degli oneri per le banche che chiedono il sostegno dello Stato, il cosiddetto burden sharing, e sugli indennizzi ai piccoli investitori titolari di obbligazioni subordinate. Polemica hanno accompagnato invece il compromesso raggiunto sulla blacklist dei debitori delle banche in crisi, dei quali saranno pubblicati i soli profili di rischio e non i nomi. Soddisfazione da parte di Palazzo Chigi, il decreto salva risparmio è un passo avanti per garantire più sicurezza economica a famiglie ed imprese, commenta il presidente del Consiglio Gentiloni. Ora le banche hanno tutti gli strumenti per accelerare lo smaltimento delle sofferenze eccessive nei loro bilanci, spiega il ministro dell'economia Padoan. Di tutt'altro avviso le opposizioni, è un provvedimento confuso ed iniquo, dice Brunetta, Forza Italia, perché salva banche e banchieri ma non salva i risparmiatori, il decreto è un assegno in bianco ai banchieri, commenta Di Maio, 5 Stelle. È tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta. All'estero andiamo in Siria. A quasi un mese dall'insediamento di Donald Trump, i ministri degli esteri delle G20, riuniti a Bonn, sperano che il capo del Dipartimento di Stato americano, Rex Tillerson, dia loro qualche indicazione sulla politica estera del nuovo presidente. Tanti dossier, compreso quello siriano, dove è crisi as usual e la palla è saldamente in mano a Russia e Turchia, che con le forze governative siriane stanno bersagliando al-Bab, ultima roccaforte dell'ISIS nel nord-ovest del paese. Sono decine i civili uccisi nell'assedio, denuncia l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, molte donne e bambini. I russi tengono anche il bandolo dei negoziati con le forze in campo. La nuova tornata è partita oggi in Kazakistan, mentre a Mosca il ministro degli esteri russo Lavrov riceveva l'inviato ONU per la Siria, De Mistura, che ha dato il suo sostegno alla trattativa di Astana, purché la situazione si normalizzi. Cosa intende fare Washington allora? È possibile, ha detto un funzionario del Pentagono alla CNN, che si dispieghino forze di terra, ma l'ultima decisione spetta a Trump, ha precisato. E cosa vuole il presidente è proprio quello che si domandano tutti. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla storia sempre più intricata dell'assassino del fratellastro del dittatore nordcoreano. È stato arrestato anche un uomo per l'omicidio di Kim Jong-nam, il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un, avvenuto lunedì mattina all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur. Dopo le due donne, di cui una di 28 anni con passaporto vietnamita e una di 25 con passaporto indonesiano, la polizia malese ha fermato anche il fidanzato di quest'ultima, un malese di 26 anni. Ancora ricercate altre 4 persone. Il corpo di Kim Jong-nam, ucciso con un veleno più potente del cianuro mentre stava per imbarcarsi su un volo per Macao, sarà restituito ai familiari più stretti attraverso l'ambasciata nordcoreana in Malesia, non appena le procedure di polizia e medico-legali saranno ultimate. Lo ha confermato il vicepremier malese Hamidi, aggiungendo peraltro che al momento l'ambasciata nordcoreana non ha presentato alcuna richiesta. E nel frattempo è emerso che il passaporto in possesso di Kim Jong-nam era autentico e non contraffatto, nonostante il nome riportato fosse un altro, Kim Chol. Sembra dunque abbia utilizzato 2 diverse identità. E oggi intanto Pyongyang festeggia il 75esimo compleanno del caro leader Kim Jong-il, padre dei 2 fratellastri. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La vicenda delle proteste dei collettivi universitari contro l'accesso col badge alla biblioteca. Oggi assemblea a Bologna, siamo assemblea dei bibliotecari, la sta seguendo la nostra inviata Raffaella Calandra. Buongiorno Raffaella, raccontaci come vanno le cose, vai. Sì, Simone, sono nel cuore della città universitaria bolognese e da una parte è appena terminata l'assemblea dei bibliotecari che hanno espresso tutto il loro malessere, diciamo, per questa situazione in cui si sono ritrovati. Dall'altra parte c'è la sede del collettivo degli studenti che questo pomeriggio alle 16 torneranno ad essere in corteo. È stato doloroso, ma è stato necessario per alcuni vedere la polizia, questa è la posizione di alcuni bibliotecari, contrastata invece da altri, mai blindati invece tra i banchi dell'università, è stata l'opposizione di altri, ma molti quasi tutti hanno espresso il loro malessere, siamo costretti ad essere blindati, ci hanno detto. Con me è uno di questi bibliotecari, rappresentante della CGIL, Franco Barbino, che ci racconta appunto questo malessere vostro dai bibliotecari. Buongiorno, sì, l'impressione ovviamente è quella di avere a che fare con una situazione molto complessa che va letta sotto tanti punti di vista, quindi non entro nel merito adesso qui, perché è castica come immagine quella della polizia che entra ovviamente nella sede universitaria ed è insomma una pesante sconfitta. Il punto è sicuramente anche quello di far emergere, e questo in quanto rappresentante sindacale, insomma, è stato dato voce in questa assemblea di tutto il personale dell'università, non soltanto dei bibliotecari, il malessere forte di chi lavora in contesti complessi, insomma difficili, dettati appunto da problemi connessi contesto, diciamo, si piazza verde, sì, una situazione per certi aspetti insomma un po' fuori controllo per quanto riguarda diciamo elementi di devianza. Barbino ci sente? Barbino ci sente? Senta, ci sono stati racconti di suoi colleghi che sono apparsi sui giornali che hanno parlato addirittura di minacce da parte delle persone dei collettivi. Ci conferma questo oppure no? Perché poi andiamo sulla sostanza. Le confermo un clima fortemente intimidatorio, quindi dover svolgere delle attività quotidiane, diciamo così, sotto il presidio, come dire, anche se vogliamo minaccioso di certi soggetti. Io non lavoro direttamente lì, li ho raccolti in quanto rappresentante sindacale, però insomma, ecco, capisce bene che l'intervento di decine di persone in un ufficio pretendere... Intimidazione a fronte di quali comportamenti? Cioè, immagino che la cosa sia questa, si vedono dei comportamenti, il bibliotecario interviene e poi viene intimidito in qualche modo, a fronte di quali comportamenti ravvisati? Ma vede, l'intimidazione nasce dal fatto che qualcuno ha fatto presente a questi soggetti che non era opportuno forzare in maniera appunto violenta l'accesso, che non si tratta di tornelli ma sono delle bussole, delle porte a vetri, e quindi insomma chiunque avesse protestato o comunque fatto notare che questa cosa non era corretta veniva in malo modo redarguito, oppure elementi connessi a un episodio specifico, ma penso del quale vi parlerà poi la responsabile della biblioteca, e quindi insomma la richiesta di riammissione al prestito in 20 di uno studente che insomma era stato in qualche modo coinvolto in questi fatti. Ma ripeto, non è solo questo, cioè è la cosa che è abbastanza sconcertante, anche sono le modalità, i modi in cui anche, voglio dire, personale delle biblioteche prevalentemente femminile, queste nostre colleghe venivano in qualche modo, diciamo, apostrofate, ecco, che è, devo dire, un inedito anche per chi ha insomma non fa un po' memoria di altre occupazioni, di altri momenti in cui almeno certe dinamiche di rispetto di genere apostrofate in quanto donne, cioè quindi con un atteggiamento, come dire, aggressivo da questo punto di vista, dice lei? Ma secondo me insomma in parte c'è stato anche questo. Poi le dico, io ho raccolto le testimonianze dei colleghi, poi è corretto che voi sentiate anche direttamente i colleghi. Comunque ripeto, l'assemblea di oggi è uscita in maniera molto propositiva, cioè analizzando i fatti, ma soprattutto ponendo come dire, non facendo sconti a nessuno, quindi non facendo sconti ai collettivi, ma soprattutto anche analizzando, diciamo, quelle che sono state le azioni che sono seguite successivamente, compreso dite voi l'accesso della polizia. Barbino, io la ringrazio, così come ringrazio la nostra Raffaella Calandra. A tutto questo, tra l'altro, Raffaella Calandra dedicherà un reportage e anche una puntata di Storiace, e quindi torneremo sicuramente a parlarne. Adesso noi restiamo in Italia e parliamo della vicenda della Garante Nazionale dei Minori e degli Adolescenti, Filomena Albano, un sequestro lampo per lei avvenuto ieri nel centro governativo di Cassano delle Murge, che ospita minorenni migranti non accompagnati. Non un sequestro, dice lei, ma un blocco. Sentiamo. Non è stato un sequestro, ma una protesta per i lunghi tempi di permanenza e la mancanza di prospettive. Così la garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano racconta quello che le è accaduto ieri in una comunità per minori stranieri non accompagnati di Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Ci sono vissuti momenti di tensione perché i ragazzi sono lì da diversi mesi e sanno che dovevano rimanere nel centro solo 60 giorni. Quindi si chiedono perché mai passati più di 4 mesi sono ancora lì. Consideri che la maggior parte dei ragazzi viene dalla Calabria, dove la loro permanenza si è protratta per mesi. Quindi sono ragazzi che di fatto sono ancora in prima accoglienza, ma da circa un anno. Ecco, questo ha generato il clima di tensione. Loro chiedono, loro vorrebbero poter studiare e lavorare nel nostro paese. E questa è una situazione comune in molti centri in Italia, dice la Garante Nazionale per l'Infanzia. È di 2 giorni fa l'appello del ministro dell'interno Minniti al comitato Schengen affinché sia completato l'iter del disegno di legge sui minori non accompagnati in Italia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport, giornata che soprattutto di calcio oggi, direi, tra la sconfitta del Napoli di ieri e l'Europa League di oggi a partire dalle 19 e poi naturalmente il ritorno di Zeman al Pescara, Carlo Genta. Sì, ritorno di Zeman al Pescara, mossa estremamente mediatica del presidente Sebastiani, perché ormai Pescara è virtualmente retrocesso, però Zeman sappiamo che aveva accompagnato trionfalmente il Pescara in Serie A con un sacco di campioni, uno dei quali ha segnato ieri sera al Bernabeu, cioè Lorenzo Insigne, ma nulla cambierà nel destino di questa stagione del Pescara. Fa sempre scena. Hai sintetizzato tutto in 2 parole, in 3 parole. Quanto a Napoli, resta vivo anche se molto ammaccato il sogno di eliminare il Real Madrid. Ieri sera 3-1 al Bernabeu, Napoli in vantaggio con un meraviglioso gol di Insigne, raggiunto per la verità forse un po' troppo presto da Benzema, e poi nel secondo tempo, insomma, diciamo che è andata bene così. Non è stato il miglior Napoli possibile, però il Real, la sua forza, il suo talento, il midossienico, come dicono in Spagna, il Bernabeu, eccetera. Diciamo che il Real è un po' più abituato a queste grandi partite. E su questo non c'è dubbio. Poi l'Europa League, oggi Europa League, in campo Roma e Fiorentina. Roma e Fiorentina, 2 ostacoli non semplici. Per la Fiorentina c'è Borussia Mönchengladbach, che l'anno scorso fece soffrire la Juventus in Champions League, e per la Roma il Villarreal, altro avversario spagnolo da non sottovalutare assolutamente. Tutto materiale per tutti i convocati a partire dalle 14. Noi andiamo al traffico, poi ci risentiamo subito dopo, iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Roma e dalle proteste dei tassisti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della protesta dei tassisti e tra un attimo ci torniamo. Abbiamo parlato della nuova polizza intestata da Romeo alla Raggi e l'esposto presentato dalla stessa Raggi, delle polemiche all'interno del Partito Democratico, delle vicende di Bologna, della biblioteca, dei collettivi universitari, come avete sentito, e poi di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Roma, come si dice. Iniziamo proprio dalla protesta dei tassisti. Riccardo Cacchione, delegato nazionale USB Taxi proprio a Roma. Buongiorno Cacchione, benvenuto. Buongiorno. Allora, voi protestate, lo abbiamo detto, contro una norma inserita nel mille proroghe dalla senatrice Lanzillotta, con la quale si prevede di prorogare la possibilità per Uber, servizio tramite un'app che è molto simile al servizio di taxi, la semplifico molto per i nostri ascoltatori, di prorogare la possibilità di operare nello stesso modo nel quale opera fino alla fine del 2017. Questo è il cuore della protesta, no? Diciamo che il cuore della protesta in sostanza è quello che dice, cioè là è la ricaduta di questa protesta. La protesta è che in sostanza, invece, per farla semplice, questo emendamento presentato dalla senatrice Lanzillotta prevede in sostanza la destrutturazione del servizio perché toglie il vincolo della territorialità, sospende l'applicazione di una parte della normativa del settore fino ad oggi in vigore, ma magari poi ignorata dagli organismi di controllo, ma è comunque in vigore, e attraverso l'abbattimento del vincolo della territorialità e del singolo servizio. Oggi il singolo servizio concluso, l'operatore del noleggio doveva tornare nella rimessa. Sì. Con questa modifica non c'ha più né il vincolo di dover tornare ad ogni servizio di rimessa, e soprattutto l'operatore del noleggio conducente, quindi parte del TPL non di linea, trasporto pubblico locale non di linea, potrà esercitare dove lui pensa sia il caso di andare, quindi abbattendo il vincolo territoriale. Lei capisce bene che vuol dire che non c'è più un vincolo di esigenza di un territorio per una determinata supporto a un servizio carente dello Stato, che è il trasporto pubblico locale di linea, ma si va in questo modo un meccanismo che si vincola al dato speculativo economico. Allora, Cacchione, lei sa benissimo che cosa, qual è il dibattito che c'è dietro. Si dice che siete corporativi e contro la modernità, è certo, un dibattito infinito, potremo andare avanti a lungo. Io invece la cosa molto semplice che le voglio chiedere è questo, e questa è una io vorrei rispondere a questa obiezione se posso, un secondo soltanto, ci metto un attimo. Sì, però noi prima lei mi deve... Aspetti. Un attimo. Prima lei mi deve dire... dire se questa protesta è legittima, la protesta che avete messo in atto oggi è legittima oppure no, perché non c'è stato preavviso, da quel che ci risulta. Questa è una protesta che non abbiamo messo in campo come organizzazione sindacale, ma che spontaneamente i tassisti, alla luce di quello che succedeva... Spontaneamente in mille arrivano davanti a Palazzo Madama, al Senato, mi scusi. Da ieri eravamo poco più di 400 persone, colleghi, oggi in più persone siamo presenti qua, ma cioè non è che noi siamo una categoria di lavoratori strana, sappiamo che ci sono delle questioni che riguardano il nostro futuro e in relazione a quello come lavoratori ci preoccupiamo, anche perché l'iter seguito dall'approvazione dell'emendamento è stato così strano che non avrebbe permesso neanche la costruzione di un'azione sindacale corretta, perché come lei dovrebbe sapere meglio di me, questo emendamento dell'Avanzi Lotta è stato inserito quando alle 4:30 era stato chiuso il maxi emendamento, sì, e non c'era traccia di questo emendamento, e fatalità, nella notte è comparso l'emendamento 9.20 che integrava il maxi emendamento, sì, con le ricadute anche politiche che determina questo, sembrerebbe, no? Mi faccia solo dire una cosa e rispondere ad un ascoltatore che è un suo collega, che insinua quante corse ti ha regalato Uber. Guardi, piglio taxi, Uber l'avrò preso 4 volte nella mia esistenza e ho scarso interesse, diciamo per la cosa. Mi interessa quello che sta succedendo in questo momento dal punto di vista della cronaca. Mi scusi, era per chiarire con gli ascoltatori, no, con i suoi ragione, colleghi che ogni tanto esagerano un pochino, diciamo. Prego. Sì, no, io sono d'accordo con lei. Il problema oggi non è esagerare, ma riuscire ad analizzare concretamente che cosa succede. L'aspetto che dice questo mio collega è chiaramente una delle ricadute, ma noi per vederla da un punto di vista che invece non è corporativo, diciamo che, come lei sa, nella TPL non di linea è regolata una normativa che prevede che siamo un supporto territoriale. Se noi facciamo cadere quella questione territoriale, quei territori che hanno oggi una supplenza del trasporto attraverso il TPL non di linea si troveranno in una situazione che continueranno a essere carenti da quel punto di vista. Quindi non è assolutamente una protesta corporativa, è una protesta che coinvolge sia l'aspetto di difesa degli interessi dei lavoratori, e penso che su questo insomma non ci sia niente di male, il fatto che i lavoratori difendano i loro diritti. In seconda battuta però deve legarsi anche alla comprensione che questa situazione ci ha una ricaduta, un impatto anche a livello dei comuni piccoli, perché non guardiamo solo quello che succede a Roma. Se io prendo una licenza, che ne so, di un comune di Reggio Calabria, dico un nome a caso, Cicala per esempio, no? Che sta a 700 km da Roma, se quello viene a lavorare a Roma, ma a Cicala, per il quale il comune ha dato quell'autorizzazione, chi ci lavora? O serviva? Se quello sta a lavorare a Roma, si vede che allora a Cicala serviva quella. Allora mi chiedo, se è questo lo squilibrio che si può creare e vincolarci soltanto al dato economico, è una responsabilità importante che la politica si deve assumere, perché sta dicendo che praticamente salta il banco, perché poi dopo diventa che perché il tassista deve essere vincolato ad esempio all'obbligo al di territorio e l'NCC no. Sì, no, ho capito il suo quindi ragionamento, è un problema territoriale, è un problema generale, è un problema che probabilmente lo Stato dovrebbe avere altre preoccupazioni rispetto a quello che succede nel TPL non di linea, piuttosto che pensare se c'è un problema per garantire poi meccanismi che successivamente sicuramente, come diceva all'inizio, favoriranno soggetti di società di capitali che magari attraverso l'intermediazione metteranno in moto dei meccanismi che poi condizioneranno e prolungheranno la filiera. Che cosa succede di solito nelle filiere che vengono prolungate? Queste sono le risposte a cui avanzi lotta, sarebbe okay. Bello che un giorno si rispondesse. Va bene, comunque conferma solo un sì o no. La protesta è spontanea, mi dice lei. Naturalmente, è spontanea. È spontanea, basta, ok, basta. Questo avevo chiesto un sì o no. In questa e in altre città, è spontanea. La ringrazio, grazie a Riccardo Cacchione, che appunto è di USB Taxi a Roma, per essere stato con noi. Raccontiamo una storia adesso, è una storia che ha a che fare con l'immigrazione e ha a che fare con come dire, il momento nel quale si trova una persona che lavora bene, lavora come Dio comanda, e questa persona non può rimanere in Italia. È una storia che è stata raccontata ieri dal Corriere della Sera e che ci interessa perché sottolinea tutta una serie di problemi che ci sono dietro. L'imprenditore che l'ha sollevata si chiama Mauro Canziani ed è in linea con noi. Canziani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Succede questo, arriva una persona dal Salvador, se non sbaglio, fa richiesta di asilo politico, fa questa richiesta di protezione internazionale perché dice che è sottoposto a una serie di estorsioni quando si trova nel suo paese, cioè non perché il Salvador è in guerra, ma semplicemente perché è sottoposto a una serie di estorsioni, e nel frattempo, mentre aspetta notizie su questa richiesta d'asilo, lei offre un lavoro a questa persona, un lavoro come giardiniere, e questo e le qualità di questa persona la soddisfano moltissimo, a quanto pare, no Canziani? Sì, certamente. Allora, lo chiameremo Gabriel per tutelarlo. In Gabriel ho trovato quelle qualità che ho comunque cercato in giovani italiani che non ho mai trovato, che sostanzialmente sono la passione per il lavoro e la voglia di lavorare. Detto questo, una volta, innanzitutto devo ringraziare Maurizio Bove che mi ha citato, che è un elemento chiave in questa faccenda della città. Sì. Io sto cercando di fare un'imprenditoria sana, che vuol dire essere professionale in regola su tutta la linea. Gabriele, fratello di Javier, che è dipendente di mio fratello, che è un'altra ditta di giardinaggio, al che parlando, dato che mio fratello ha bisogno, ha voglia, eccetera. Lei l'ha preso sostanzialmente mentre era in attesa di questa dovrei fare una specifica. Lui è in attesa di asilo politico, perché l'unico modo per entrare in Italia dal San Salvador è o come turista o come richiedente asilo politico. Sì. Non ci sono altre soluzioni, ok? Perché il punto è che c'è una regola, perché lo ricordiamo come funzionano le regole in Italia. Ogni anno dovrebbe essere fatto un decreto flussi, un decreto con il quale il governo dice ok, abbiamo bisogno di tot lavoratori stranieri. Come funziona il decreto flussi? Con tipica ipocrisia italiana, funziona con una teorica chiamata dall'estero. Cioè io dovrei chiamare dall'estero un lavoratore. Una persona che non conosco. Ovviamente non funziona così, e i decreti flussi sono sempre stati di fatto delle regolarizzazioni o delle sanatorie mascherate. Il punto è che ci sono una serie di persone che sono nel nostro paese. Penso per esempio ai tantissimi ucraini che sono scappati durante la guerra e che lavorano in molte case in nero come badanti, come lavoratrici delle pulizie, e non solamente quello, anche come operai naturalmente, e queste persone non possono essere regolarizzate. Giusto, tra l'altro nel decreto flussi non sempre ci sono tutti gli stati, attenzione, non è generale mondiale, ma nel decreto flussi dicono tot da Venezuela, tot eccetera eccetera. Può essere che non ci sia il San Salvador. Okay. La morale Canziani è che lei, questo Gabriel, nome di fantasia, non se lo può riprendere perché gli è stato rifiutato l'asilo politico. L'asilo politico è stato rifiutato, siamo andati al processo, abbiamo fatto gli è stato negato l'appello, 2700 euro, l'appello che ne costerebbe 1700, abbiamo preso una decisione come un accordo con Gabriel, che non, sostanzialmente gli dovrei dare io perché lui non ha soldi, ma ha deciso di non farlo perché c'è la verosimile, cioè verosimilmente andrà negativo, insomma, sostanzialmente. Ma il problema di fondo è un altro, che non è Mauro Canziani. Il problema di fondo è che è ovvio che dopo questa esperienza io gente con asilo politico non assumerò più, ok? Ovvio. Assumerò uno che non ha problemi, che ha il promesso di soggiorno. Ma questa gente qui deve lavorare o deve guadagnare in qualche modo, perché comunque per legge dovrebbero avere la risposta entro 6 mesi, ma tendenzialmente la danno entro 2 anni perché c'è un affollamento. E quindi stanno questi lavorano in nero. Una concorrenza sleale. Canziani, molto brevemente, perché sì, stiamo andando un po' lunghi. Un ascoltatore sì, ci scrive: io sono un italiano e lavorerei volentieri per Canziani, ma lei con gli italiani ci ha provato e mi ha detto non c'è riuscito. Allora, io ci ho provato, esperienza diretta e indiretta. La diretta, potrei fare esempio, inutile che ci allunghiamo. L'indiretta, ma lei basta che si guarda in giro, ognuno che si guarda in giro guarda la piccola e media imprenditoria e vede che non ci sono italiani giovani che vogliono fare questi lavori. Io ho una laurea di specialità, non mi voglio dire, ma prendi male il badile. Mi sono trovato a ragazzi che hanno la terza media che al secondo giorno hanno già le pretese. Io non dico non hanno voglia di lavorare, attenzione. Io dico che non hanno la passione per imparare e... Come diceva un vecchio slogan, la passione si sente. Grazie a Mauro Canziani per essere stato con noi, imprenditore. Qualche ascoltatore dice: ma dai, asilo politico per estorsione non esiste. Ha perfettamente ragione. Infatti, come lo stesso Canziani alla fin fine ci ha detto, è sostanzialmente un sotterfugio per aggirare una legge che evidentemente non funziona. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco. Due storie. La prima ancora quella vicenda terribile di Lavagna, del ragazzino di 16 anni che si è tolto la vita dopo una perquisizione. La nostra Cristina Carpinelli ha intervistato il capo dei finanzieri di Genova che ci racconta un po' come sono andate le cose e che cosa pensano loro. E poi dall'altra parte una vicenda che riguarda il carnevale di Putignano, dove è stato chiamato a cantare sul palco il figlio del boss di un quartiere di Bari. Figlio del boss a sua volta indagato. Grande polemica, tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: la protesta dei tassisti contro la proroga in arrivo per Uber, macchine ferme a Roma, Torino, Milano, il garante degli scioperi valuta la legittimità delle proteste. Spunta una nuova polizza intestata da Romeo alla Raggi, la sindaca contrattacca e presenta un esposto. Nel PD scissione sempre più vicina, Renzi cambia linea o siamo fuori, dice il presidente pugliese Emiliano. Napoli sconfitto dal Real e questa sera tocca l'Europa League in campo Roma e Fiorentina. Per il Pescara c'è l'accordo, Zeman torna ad allenare la squadra. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per tornare sulla vicenda di Lavagna, sul dramma del ragazzino di 16 anni che si è tolto la vita dopo una perquisizione davanti a scuola e dopo che i finanzieri sono arrivati in casa e gli hanno trovato 10 grammi di hashish. Da oggi nei casi di minori e droghe leggere probabilmente ci faremo affiancare da esperti a parlare. È il generale Renzo Nisi, comandante provinciale della Guardia di Finanza, che ha gestito i controlli. Sentiamolo, intervistato da Cristina Carpinelli. Quello che io mi sento di dire è che secondo me la famiglia ha fatto bene a rivolgersi alle istituzioni per avere una mano. La questione è quando c'è di mezzo un minore e una questione anche di droga leggera, perché stiamo parlando di droga leggera, no? Sì. Esistono delle procedure più delicate? Ecco, bisogna sempre distinguere. Quando si tratta di un'indagine nella quale vengono coinvolti minori c'è ovviamente un coinvolgimento fin da subito della procura di riferimento, okay, che è la procura minorile. In questo caso stiamo parlando di un intervento che non era nato da un'investigazione, qui l'attività nasce da una richiesta d'aiuto della famiglia che di per sé non avrebbe in teoria dovuto avere un esito neppure di particolare gravità, perché comunque di fronte poi alla marachella svelata sarebbe stato questo ragazzo sanzionato verosimilmente con un provvedimento di carattere amministrativo emesso dalla prefettura, probabilmente il ritiro della patente del motorino. Ma questa cosa è stata detta al ragazzo o magari si è creato una sensazione di tensione? Guardi, l'intervento è stato organizzato, innanzitutto è stato eseguito da una pattuglia di persone molto esperte e anche di una certa età, quindi con esperienza a loro volta di carattere non solo di esperienza professionale ma anche di esperienza familiare, quindi persone adulte, non ragazzi che andavano lì a fare gli sceriffi. è stato organizzato in modo tale che questo ragazzo a casa trovasse la famiglia, quindi... Vi state interrogando, cioè se tornaste indietro, lo so che è una domanda assurda, però cosa fareste oggi? Vi comportereste diversamente? Avete deciso di mettere in atto una procedura per questi casi diversa? Certo, se dovesse capitarci di nuovo di affrontare una situazione con un minore coinvolto, non considereremmo più sufficiente il semplice stare nel suo ambiente familiare con la presenza dei suoi genitori come una salvaguardia sufficiente. Probabilmente penseremmo a qualche cosa, diciamo, di più, magari l'intervento di qualche esperto, così come ci è stato suggerito da autorevoli esperti in questi giorni, insomma. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo in Puglia, a Putignano. Siamo a ridosso del carnevale, quindi qualcosa di un po' più leggero, e sul palco dovrebbe cantare quest'uomo qua. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Non so proprio come finirà. Io dopo di lui non so ci sarà. Allora, chi ama i neomelodici, non sono della schiera io personalmente, però per chi ama i neomelodici è un personaggio, si chiama Tommy Parisi ed è appunto un cantante neomelodico, viene da Bari e il punto è che il figlio di un boss del quartiere Iapigia. Ma non è solamente questo, perché come sapete noi non ci importa, anzi può essere un importante elemento di riscatto. Si dedica alla musica mentre il padre si dedica alla malavita. Il punto è che Tommy Parisi è stato anche arrestato un anno fa. È stato arrestato con l'accusa di associazione mafiosa, poi è stato rimesso in libertà e però è ancora indagato e si attende che il giudice dell'udienza preliminare si pronunci. Il punto è che Tommy Parisi è stato chiamato a cantare al Carnevale di Putignano, che è un appuntamento importantissimo in Italia. Domenico Gianandrea è il sindaco di Putignano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, come l'ha presa questa cosa? Perché da quel che ho capito non l'avete organizzata voi come, diciamo, ente centrale di organizzazione, no? Ecco, mi ritrovo a commentare una notizia di stampa, nel senso che del presunto concerto di Tommy Parisi io ho appreso questa mattina dalla stampa, perché vi è un'associazione che in collaborazione con il nostro ente organizza delle manifestazioni, che avrebbe contattato appunto questo signore perché si esibisse a Putignano. Noi non ne eravamo informati e men che meno avevamo autorizzato una manifestazione di questo genere, questo va detto per amore, sì, di chiarezza. Sì. Ascolti, ma lei ci ha parlato con quelli di questa associazione? Assolutamente sì. E che le hanno detto? E che loro ci avevano pensato a fare una kermesse neomelodica nell'ambito della quale poteva esserci anche Parisi. Hanno diramato un comunicato, tra l'altro, soltanto oggi, ma a noi non avevano detto niente. A voi non avevano detto niente, e che hanno detto? Che lo hanno contattato oppure no? Viene oppure no sto Tommy Parisi? No, non viene. Non viene perché alla fine non viene. Hanno valutato insieme a noi che l'esibizione era un po' inopportuna, tutto sommato. Povero Tommy Parisi, poi magari è una bravissima persona, noi siamo sempre garantisti, nel allora, senso che no, se mi poi dire sì, sono un garantista anch'io, considero la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio una punta di dignità della nostra legislazione. Da sindaco ho anche il dovere di fare delle valutazioni di opportunità che prescindono dal piano strettamente giuridico. Senta, ma non era una mezza bufala, magari? A me è venuto in mente perché l'associazione si chiama Trullando, e dato che suona un po' come, no, un troll da internet o roba, guardi, di questo genere, ho detto magari una se bufala. Se dico cosa ci hanno combinato il giorno della presentazione della manifestazione, davanti a tutta la stampa locale hanno tirato fuori dei manifesti con annullato e dichiaravano che la manifestazione era totalmente annullata, è una manifestazione che si svolge su più giornate, che comporta un certo impegno di mezzi e uomini da parte del comune e della fondazione. Vabbè, quindi stanno effettivamente trollando, cioè non è in solamente qualche maniera, sì, sono in qualche maniera sì, un po' vabbè, troppo imbevuti dello spirito del carnevale, diciamo. Va bene, Domenico Gianandrea, buon carnevale, traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.